Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale appuntamento con la stampa periodica, una rassegna dei periodici italiani e non solo, che potete trovare in edicola, potete trovare in circolazione in questi giorni. Cominciamo da un paio di questioni che mi sembrano particolarmente di moda, non solo in questi giorni, ma direi in questi mesi. L'una è una domanda che è stata posta giovedì dal magazine uscito in abbinamento con il Corriere della Sera. La domanda è di Franco Foresta Martin e ci chiede: ma il pianeta ha davvero la febbre? Ovvero, veniamo da un inverno che non è stato sicuramente mite e qualcuno, più di uno direi, ha messo in dubbio la bontà delle previsioni invece che vorrebbero un surriscaldamento globale. Allora, questo inverno gelido, è la domanda di Foresta Martin, è il segnale che non è vero che c'è questo surriscaldamento globale oppure invece no? Una questione molto dibattuta. La ricostruzione di Foresta Martin è che questo inverno in realtà non cambia di molto le questioni, lo stato dell'arte, insomma. Per gli esperti, infatti, si avverte già dal sommario, non basta una stagione più fredda per invertire la tendenza e in molti avvertono la temperatura si alzerà ancora. Il pregiudizio, come lo chiama Martin, dei negazionisti è che il clima non stia cambiando a causa dell'uomo, ma semplicemente per il fatto che è sempre cambiato, anche quando l'uomo non era ancora presente sul pianeta. Una tesi, scrive sempre Foresta Martin, che ci libera da qualunque responsabilità e che si fonda sul pregiudizio che noi non saremmo in grado di spostare gli equilibri naturali. In realtà, se non ci fosse l'interferenza dell'uomo, piuttosto che un futuro rovente, ci dovremmo aspettare l'arrivo di una nuova glaciazione. Infatti, stando ai cicli del passato, il nostro confortevole periodo interglaciale, caratterizzato da temperature medie globali di una quindicina di gradi e che dura da più di 10.000 anni, dovrebbe essere prossimo alla conclusione. La ricostruzione di Martin insomma è abbastanza tranchant sul punto, è abbastanza decisa sul punto. Questo inverno, anche se è stato più freddo, non è assolutamente la dimostrazione che il problema del surriscaldamento della Terra ad opera appunto dell'attività dell'uomo non esista, anzi rimangono intatti tutti i dubbi e quindi vanno comunque mantenuti tutti gli sforzi anche internazionali per cambiare. Quindi il protocollo di Kyoto è stato l'accordo su cui ci si è basati in questi anni, ma un protocollo su cui ci sono molte incertezze. Infatti, come scrive Foresta Martin nella conclusione del suo articolo, ci si oscilla tra il pessimismo di chi teme che Kyoto si possa concludere senza alcun seguito, con una cieca rassegnazione agli effetti più disastrosi dei cambiamenti climatici, e la speranza invece di chi ritiene che, nonostante la crisi economica e anzi proprio perché pressati da questa sfavorevole congiuntura, si possa ritrovare un'unità di azione mondiale a difesa del sistema climatico. Questo l'auspicio ambivalente, insomma, che chiude in qualche modo l'articolo di Franco Foresta Martin su Magazine del Corriere della Sera. E c'è un altro tema che è abbastanza ricorrente da settimane, direi anche da mesi, si chiama neoproibizionismo. Se ne occupa l'Espresso in edicola da ieri. Neoproibizionismo che sta interessando soprattutto le città, cioè le ordinanze, le disposizioni che vengono varate dai sindaci nelle città. Ne ricorda qualcuno Gigi Riva nel sommario del suo articolo: mangiare cornetti di notte a Roma è vietato, vendere kebab nel centro di Lucca è vietato, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, baciarsi in auto a Eboli, sedersi su una panchina a Vicenza è ugualmente vietato, se ricordo bene l'ordinanza, più di 3 persone. In Italia, insomma, dice Gigi Riva, dilagano i non si può e i divieti diventano la risposta alla richiesta di sicurezza. A Trento, si avverte sempre in questo articolo dell'Espresso, ci sono multe salate per chi danneggia oppure ruba i cartelli che riportano i messaggi di divieto, quindi un divieto per far mantenere i divieti in questa voglia di vietare, di regolamentare. Più che altro, come spiega poi l'articolo appunto di Gigi Riva sull'Espresso, le ordinanze si sono concentrate su divieti di accattonaggio, divieti di esercizio della prostituzione all'aperto, quantomeno l'abbandono dei rifiuti e il consumo delle bevande alcoliche all'aperto. Questi sono stati, vedendo da una tabella che compare nell'articolo dell'Espresso, alcuni dei temi più gettonati nelle ordinanze appunto prese dai sindaci, e questo sistema di divieti sembra dilagare in modo più deciso al nord rispetto ai dati che provengono dal centro e dal sud. Questi almeno i valori: il nord avrebbe un totale di 330 ordinanze, il centro di 86, al sud 116 e nelle isole solo 24. Quindi la voglia di vietare, la voglia di intervenire a regolamentare diversamente la nostra vita, sia pubblica e qualche volta anche privata, è più forte nelle aree settentrionali del paese, meno avvertita invece nelle aree centrali del paese. Sull'Espresso di questa settimana. E ancora sull'Espresso di questa settimana un altro tema di cui si sta parlando. Qui non si fa più beneficenza. Cosa succede? La recessione costringe imprese e famiglie a ridurre le donazioni. Tiene però la ricerca scientifica e allarma invece sui fondi per la cooperazione internazionale e l'ambiente. Questo sembrerebbe appunto una circostanza a sfavore di quanto scrive Foresta Martin, per cui le esigenze sul clima sarebbero comunque da avvertire anche in una fase di recessione. Una tabella che accompagna questa inchiesta di Vittorio Malagutti ci spiega che c'è stata una riduzione nel periodo natalizio 2008 sulle donazioni al volontariato italiano rispetto al 2007. Si passa da chi ha avuto genericamente un po' meno, il campione era di 100 associazioni ed era il 28% del campione, ha avuto molto meno di quanto avesse incassato l'anno prima, il 7%, ha avuto di più, il 21%, e si è invece mantenuto in linea il 43%. Questa indagine è stata condotta nel gennaio 2009, segnala appunto un inizio di contrazione per quanto riguarda le donazioni fatte in beneficenza, donazioni che ovviamente risentono della crisi. In America, scrive appunto Malagutti, il piatto piange già da un pezzo. Per forza, molti generosi donatori statunitensi, in primis i colossi della finanza, sono finiti sul lastrico. E allora addio donazioni milionarie, quelle buone per lavarsi la coscienza e risparmiare in tasse. Ma anche in Italia tira una brutta aria, la crisi genera incertezza per il futuro, risultato, famiglie e aziende sono costrette a rivedere in corsa i loro piani, dirottando altrove le risorse fin qui destinate alla beneficenza. Ma il peggio forse deve ancora venire, e di questo passo la bontà, questo scrive Malagutti, potrebbe diventare un lusso. Speriamo naturalmente che questa sia una profezia destinata a non avverarsi. E poiché abbiamo parlato di famiglie che hanno un po' meno da donare o comunque donano un po' meno, restiamo sul tema con Tempi, il settimanale Tempi, che ci informa già dalla copertina che le famiglie sono in pericolo. Il numero di questa settimana esamina sia le follie giudiziarie, la politica latitante, e dice: il cuore della società è sempre più in affanno. C'è un articolo però nella serie di articoli che vengono proposti su questo numero che incuriosisce, perché dice: le famiglie non giocano più. Il titolo polemicamente avverte l'assenza di interventi specialmente fiscali e comunque di welfare, di sostegno a favore della famiglia. Dalla beffa del quoziente a quella del bonus, e il governo pensa solo ad auto e lavatrici, le promesse non mantenute che lasciano in braghe di tela il cuore della società. Paola Soave sale sulle barricate. Paola Soave è la vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari, una combattiva rete di sigle, si legge in questo articolo su Tempi, che sono impegnate a tenere alto il vessillo di quella strana realtà che si chiama famiglia tradizionale. I numeri che vengono presentati su Tempi, alcuni dei quali, mi fa piacere segnalarlo, vengono proprio dalle inchieste del Sole 24 Ore, dicono che sostanzialmente le misure, specialmente fiscali, a favore delle famiglie ci vedono sempre un po' in ritardo. Un confronto proprio dalle pagine di Tempi, segnala che per un reddito sia di 25.000 euro sia di 50.000 euro l'aliquota media per una famiglia italiana sta al 26,4% con il reddito di 50.000 euro, mentre per la Francia si ferma al 5%. Hanno valori paragonabili ai nostri, diciamo solo in Austria, dove contro il nostro 26,4% per un reddito di 50.000 euro il prelievo arriva al 25,6%. E questo è un po' il dato, e poi c'è il rammarico naturalmente per le varie promesse, le varie segnalazioni che si erano fatte in campagna elettorale di quoziente familiare, cioè di possibilità di calcolare il carico fiscale non più sul singolo soggetto ma anche in modo coerente, in modo unitario per tutta la famiglia, così da poter dare sollievo, da poter dare aiuto alle famiglie che avevano più bisogno. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di famiglie e allora vediamo una cosa che è cambiata e come è cambiata nelle famiglie italiane in un arco di tempo abbastanza lungo. Prendiamo la segnalazione dal Il Mulino. Il Mulino si presenta da quest'anno, dal 2009, con una veste assolutamente rinnovata, esce 6 volte l'anno e è composto da una serie di saggi, anche saggi molto lunghi, molto dettagliati, che informano delle varie tendenze politiche, ma non solo, anche sociologiche. Ad esempio, dal numero 1 del 2009, un saggio di Asher Colombo e Raffaella Sarti ci spiega come è cambiato il servizio domestico dal dopoguerra a oggi. Il lavoro domestico è profondamente mutato, ricorda questo saggio, nella fase dell'immediato dopoguerra, quando rispetto al periodo fascista, dicono le due ricercatrici, l'incidenza dei domestici risultava solo l'1,9% nel 1951 contro il 2,9 di 20 anni prima, del 1931. Poi via via il saggio segue l'evoluzione anche normativa del lavoro domestico, del lavoro delle collaboratrici familiari, e si concentra poi sul periodo che intercorre tra il 73 e il 2005. Allora, che cosa è cambiato? È cambiato che c'è in un primo tempo una mera continuazione delle tendenze precedenti, cioè il declino un po' della domanda e dell'offerta. Dopodiché nel censimento più avanti, cioè a metà degli anni 80, si vede una inversione di tendenza e praticamente aumenta di nuovo la richiesta di lavoro domestico. Qual è il cambiamento? Viene sintetizzato in questa frase: il cambiamento avvenuto dagli anni 70 a oggi può essere ricondotto almeno in parte all'operare di fattori sociodemografici. Sono cresciute le famiglie con anziani e quelle a doppio reddito, e questo cambiamento è avvenuto nel contesto di un welfare basato sui trasferimenti di denaro anziché sull'erogazione di servizi alle famiglie. La disponibilità di lavoro domestico a pagamento ha sostituito almeno in parte il welfare state, cioè l'assistenza dello Stato, e ne ha coperto le carenze. Da qui appunto la crescita della domanda di lavoro domestico, di servizio domestico, dopo una fase invece di contrazione. E poiché abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di lavoro domestico, abbiamo parlato di ambiente familiare, allora è doveroso naturalmente parlare anche della ricorrenza di domani, l'8 marzo, festa della donna. Naturalmente tutti i settimanali in edicola si occupano a vario titolo di segnalare questa ricorrenza, questa festa della donna. Prendiamo solo dei numeri in questo caso, li prendiamo da Famiglia Cristiana, perché Famiglia Cristiana presenta una serie di pagine in cui si segnala il tasso appunto di femminile nelle varie attività d'Italia. Ad esempio, all'università il 57% degli iscritti sono donne. Il 60,7% dei laureati è donna, quindi arrivano alla laurea più donne che uomini. Nelle professioni il 36,4% degli avvocati è donna, il 39,8% dei consulenti del lavoro, il 34% dei medici, il 30%, dato forse non così scontato, degli ingegneri, e il 26% dei notai. Sono donne infine anche il 36,7% dei giornalisti. Questi alcuni dati sulla presenza sempre più costante, giustamente, e sempre più diffusa delle donne nelle professioni, nelle attività economiche. Altri numeri ancora su questo speciale donne che viene presentato da Famiglia Cristiana sono i numeri delle donne in Parlamento. Qui devo dire si fa un po' più fatica a quanto pare, perché risultano 134 deputate su un totale di 360, 59 senatrici su 322 e 14 europarlamentari su 78. La percentuale diventa assolutamente diversa quando si va a guardare nel volontariato: il 50% di 1.123.000 volontari sono donne, il 33,6% delle organizzazioni di volontariato è guidato da una donna. E alle donne sarà dedicato anche l'impresa che troverete in edicola nei prossimi giorni insieme al Sole 24 Ore. Ci sarà uno speciale dedicato ai talenti femminili. Tra l'altro, in questi talenti femminili si ricorda, con alcune dichiarazioni di Kathleen Kennedy, ricordate, governatrice del Maryland, che commenta il fatto che la prima legge del presidente Obama sia stata proprio una legge volta alla equità dei salari delle donne. È stata una decisione notevole, segnala Kathleen Kennedy, che sarà poi in Italia proprio a fine mese, e la nuova legislazione proteggerà le donne e altri che hanno subito discriminazioni. Naturalmente in questi tempi di difficoltà economiche è stato anche un riconoscimento al fatto che le donne dovrebbero essere pagate giustamente perché le loro famiglie non soffrano di illegittime riduzioni di salario. Questa è la preoccupazione di Kathleen Kennedy, che troverete sull'Impresa nei prossimi giorni con il Sole 24 Ore. E visto che abbiamo parlato un po' di America con Kathleen Kennedy, vediamo dall'Economist di questa settimana alcuni effetti inattesi della crisi. C'è qualche settore che va forte, ogni tanto se ne trovano. Abbiamo parlato di McDonald's nelle settimane scorse, adesso parliamo dei cosiddetti one dollar shop, da noi si chiamano più o meno tutto a un euro. Il Dollar Tree, riferisce l'Economist di questa settimana, che è una catena di questi one dollar shop, cioè negozi da un dollaro, ha aumentato del 6,8 il suo fatturato rispetto all'anno precedente. Altre catene di questo tipo, che sono sempre americane, Family Dollar è un'altra, ad esempio, Dollar e altre catene ancora stanno comunque tutte crescendo, approfittando ovviamente del momento di ristrettezza e quindi un momento in cui le persone sono molto più attente ai consumi di quanto non accada di solito. Ma quello che è interessante, viene sempre segnalato nella parte conclusiva di questo breve articolo dell'Economist, è che i negozi da un dollaro stanno cambiando in linea con l'economia tutta. Per decenni si potevano trovare questi negozi soltanto nelle aree rurali, mentre ora, con la recessione che si sta facendo sentire un po' in tutte le parti del paese, sono abbastanza comuni anche a Chicago o a Los Angeles. E una volta erano una particolarità degli stati più meridionali, mentre in questo momento sono abbastanza ben diffusi, risultano meglio diffusi su tutto il territorio americano. E allora, se il presente, come dire, è un presente erosio solo in parte, perché comunque la fortuna degli one dollar shop piuttosto che dei negozi da un euro non è proprio del tutto una buona notizia, guardiamo ancora più avanti, sempre con l'Economist, che ci avvisa nel suo speciale dedicato alla tecnologia che potremo avere anche delle macchine alimentate a caffè. Solitamente il caffè, come ricordano anche i giornalisti dell'Economist, è utilizzato più per dare energia alla mente, per dare energia alle persone, ma invece esiste ed è anche un sistema in via di evoluzione il modo di trarre proprio da alcuni sottoprodotti della coltivazione del caffè la possibilità di ottenere il biodiesel, cioè anziché partendo da altri materiali partire appunto dal caffè. E con questa segnalazione, aspettando di vedere se potremo fare il pieno al caffè anziché con la nafta o con la benzina, io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima sempre con Magazine 24 per i nuovi settimanali. Ringrazio Valeria Bernardi che ci ha assistito in regia, nonché Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'aiuto nella redazione del programma. Grazie a tutti e arrivederci.